Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Il fallimento è un fallimento di tutti. Io in questo momento rappresento il Milan e se ci dovesse essere un fallimento, logicamente sì, avrei fallito io, come avrebbe fallito i giocatori, come tutti. Menes nell'angolino, questa volta non ci arriva Pardi ed è 3-3 nel recupero. Il Milan agghiaccia il Frosinone. È finita, finisce 3-3, il Milan rimonta, porta a casa un punto, il Frosinone vede assottigliarsi ancora di più le speranze di salvezza. È stato un pomeriggio di parolacce e di emozioni. Le parolacce poi le sentiamo, quelle di Vettel, tamponato da Kvyat dopo quattro curve del primo giro del Gran Premio di Russia. Le emozioni torto, grandissime, quelle dell'Old Trafford, ma dobbiamo aspettare ancora magari 24 ore, chissà, magari una settimana. Guarda, Giovanni, per poter festeggiare Leicester campione d'Inghilterra. Io spero di vederlo, come dici tu, a Ranieri importerà niente, però domani c'è Chelsea-Tottenham, però... Sarebbe bello vedere la festa sul campo per questo scudetto dell'Leicester, lo dico in un afflato di romanticismo. Sì, sarebbe bellissimo, però noi siamo più pragmatici. Se domani siamo tutti contenti. Tottenham non batte il Chelsea a Stamford Bridge, festeggiamo. Non ci dispiace per niente. Altrimenti un'altra settimana di passione, così come di passione sono stati oggi 95 minuti di Manchester-Leicester, è finita 1-1, poi avremo modo di parlarne anche con chi l'ha raccontata direttamente da Manchester, ma lo facciamo dopo le 18. Poi c'è il Milan, col drammone della domenica pomeriggio. Xavier Iacobelli, ciao direttore. Buon pomeriggio a voi. Buon allora, io do due numeri e poi apriamo processo e discussione. 800 24 00 24, se volete intervenire fino alle 19 per raccontarci le vostre emozioni positive o negative di questa domenica pomeriggio, oppure 349-238-6666 via sms e via whatsapp. I numeri dicono che il rigore di Menez al minuto numero 92 ha portato il Milan a quota 54 punti, uno in meno del Sassuolo, ma diciamo tenendo nell'arco di una partita la possibilità di ribaltare ancora la situazione di una volata Europa League che si sta facendo complicatissima per il Milan. I numeri però dicono anche che Brocchi, a parte la prima partita con la Samp, ha fatto 2 punti in 3 gare contro Carpi, Verona e Frosinone. Questi sono i numeri del Milan dopo il 3-3 col Frosinone. Io non so chi vuole cominciare, Carlo. No, io dico soltanto che numeri che confermano come la scelta del Milan sia stata quella che Fantozzi definiva la corazzata Potionkin. Te lo ricordi, direttore? Una cagata pazzesca. Il cambio di panchina in quel momento, in quel modo e in queste condizioni è stato un autogol clamoroso, ma al di là del valore di Blocchi, al di là del valore di Mihajlovic, sia stato un clamoroso atto di autolesionismo. Ma io mi domando che cosa debba aspettare ancora Berlusconi per vendere il Milan. Ormai ci siamo. Di decidersi, domani... no? Di sì, domani credo che sia una giornata importante, soprattutto a borse chiuse, visto che la cordata cinese e la Fininvest stanno procedendo spediti in questa direzione sulla base di 700 milioni di euro per la società. Ma al di là ovviamente di questa vicenda, qui c'è il tracollo di un sistema, che è il sistema Milan. Nessuno mi sconosce i meriti, le vittorie, i trionfi dei primi 25 anni di gestione del Milan, ma qui siamo di fronte al quinto allenatore che siede sulla panchina rossonera nell'arco di 27 mesi. È stato cacciato Mihajlovic, accompagnato anche da una frase: non ho mai visto il Milan giocare così male, aveva detto Berlusconi. Adesso credo che possa aggiornare le sue classifiche. Ha anche un po' perso la memoria, secondo me. No, ma il problema è che c'è uno scollamento totale fra la realtà virtuale e la realtà di una squadra che in questo momento è fuori dall'Europa, non soltanto dalla Champions League per il terzo anno consecutivo, con tutto quello che significherà dal punto di vista del bilancio, e mi pare che i piccoli azionisti in occasione dell'assemblea dei soci abbiano inchiodato con i loro numeri la gestione degli ultimi 5 anni della società. In qualunque altra azienda normale sarebbero saltati i vertici e avrebbero nominato nuovi manager per vedere se fosse possibile ripartire. Ma quello che veramente colpisce è come Berlusconi non si sia reso conto in questi mesi, in queste settimane, della china che avessero preso gli eventi, e trasformare Mihajlovic nel capro espiatorio di una situazione che in realtà affonda le proprie radici in 5 anni di errori sul mercato. Da quando è stato scaricato Pirlo è stata la palla di neve che è diventata valanga. In giocatori che con la storia del Milan, con la maglia del Milan, non hanno niente a che vedere. Sì, direttore, io però credo anche in budget che nella storia del Milan non hanno mai avuto precedenti, a parte l'ultima estate, ma poi in un'estate io credo sia illusorio pensare di recuperare 3 anni di parametri zero di mancati investimenti, perché per carità poi il processo a Gagliani e a come ha condotto la parte sportiva, qui lo iniziamo e lo finiamo domani mattina a mezzanotte, domani sera a mezzanotte, però mi pare che così si tira un po' fuori Berlusconi dalla questione. Berlusconi Fininvest, no, da scelte anche legittime, Io scelte legittime, ma qui qualcuno deve pagare, cioè, voglio dire, qualcuno i giocatori sbagliati li ha presi, qualcuno li ha pagati. Sì, qualcuno, Berlusconi, direttore, Berlusconi. Berlusconi, ho capito, ma anche Gagliani, cioè, voglio dire, non pare che sia un soprammobile nella sede di Aldo Rossi. Voglio dire, quando il 3 novembre del 2014 ci fu il comunicato all'ANSA di Barbara Berlusconi, in cui nero su bianco, e non era mai successo prima, una consigliera di amministrazione all'epoca, non ancora amministratrice delegata, affermava che la campagna acquisti della società era stata sbagliata, che non era vero che il Milan non avesse speso, ma aveva speso male. E da lì poi tutto quello che è venuto dopo testimonia l'incapacità da parte della società, in primis da parte del suo proprietario, di comprendere come la crisi fosse sempre più grave. Perché poi c'è stato il balletto delle dimissioni di Gagliani, che poi sotto Natale sono state ritirate perché Berlusconi si è inventato la formula del diavolo due tette, che non ha mai funzionato. Secondo te è Gagliani il responsabile dello scempio? Chi è il responsabile numero uno? Chiaramente Berlusconi, Gagliani, a chi? Cioè, chi c'è d'altri responsabili? No, io però credo che si possano scindere le responsabilità dei due, che ci sono. Ma non si possono scindere, ma questo è il plenipotenziario del mercato del Milan. Quando Barbara Berlusconi voleva portare come direttore sportivo Sean Sogliano e portare Maldini in società, si è trovata davanti la netta opposizione. Ma qui ci sono delle scelte di mercato che sono state completamente sballate. E sono state avallate, fatte da Gagliani e avallate da Berlusconi. Non mi pare che ci sia qualcun altro che abbia voce in capitolo in materia di mercato. Dopodiché sono stati bruciati nell'ordine. Seedorf, che nel suo girone di ritorno aveva totalizzato meno punti soltanto di Conte, che vinse lo scudetto, 35 e di Garcia alla guida della Roma. Dopodiché è stato bruciato Inzaghi, ma adesso poi Mihajlovic e adesso Brocchi, che non c'entra assolutamente nulla, ovviamente. Ma neanche ci fosse Ancelotti sulla panchina del Milan. Ma neanche ci fosse Mourinho sulla panchina del Milan. Ma se tu hai un organico come questo, non puoi andare oltre il 7º o 8º posto. È un miracolo se entri in Europa League. Ma la domanda è perché allora ci è stato detto... Io però credo, direttore, che questo organico non giustifichi quello che è stato fatto da Mihajlovic e da Brocchi in questo veloce arco di tempo. Cioè, questo organico deve fare più di 2 punti, ad esempio, con Carpi, Verona e Frosinone, che sono quelli che ha fatto Brocchi adesso, ma tanto è in fotocopia con quello che è successo anche con Mihajlovic in un paio di passaggi di questa stagione. Quindi non colpevolizziamo Brocchi, facciamo una fotografia anche tecnica. Però facciamo così, siccome è interessantissima la discussione, 800-24-00-24, aspettiamo anche le parole di Brocchi in diretta per capire. Oggi l'abbiamo visto molto scosso, molto, molto anche arrabbiato in alcuni momenti, molto sfiduciato in altri. Abbiamo il traffico, io ti chiedo, direttore, un minuto di pazienza dopo il traffico, così riagganciamo i fili di tutto. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. C'è Di Francesco, i microfoni di Sky. Sassuolo, che è nuova squadra al 6º posto, oggi sarebbe qualificato in Europa League. Calcio italiano, perché siamo abituati a vedere le partite in maniera diversa. Questa vittoria ora vi mette con, diciamo, un set point? Siete oppure ai vantaggi rispetto al Milan? Abbiamo sempre rincorso, come si suol dire, di solito chi rincorre è avvantaggiato. Non lo so, adesso siamo contenti di essere avanti di un punto e cercheremo di portarlo fino alla fine. Abbiamo 2 partite non facili, tra cui quella di Frosinone, dove ha dimostrato anche oggi di essere ancora vivo, ha sfiorato di vincere a San Siro, per quello sarà una partita difficile, però vi posso assicurare che ben vengano quelle difficili per quella che è la mentalità della mia squadra e la voglia di andare a preparare certe partite. Rimane più alta la concentrazione? Ma anche oggi magari era alta, però c'era meno spensieratezza in quello che ricercavamo, eravamo meno brillanti, meno lucidi nelle scelte, però oggi contava vincere, faccio un po' come dicono tutti, contava vincere e abbiamo vinto. Questo di Francesco, i microfoni di Sky. Diamo un'occhiata, Carlo, al calendario. Sassuolo 55 punti, avrà il Frosinone fuori casa e poi l'Inter in casa, e il Milan invece che va a Bologna nel prossimo fine settimana e poi chiude con Milan-Roma. Ripeto, un punto di distanza tra le due squadre, e il Sassuolo ha a favore anche lo scontro diretto. Per questo dico che se il Milan in qualche modo agguanterà il sesto posto dell'Europa League, dovrà molto anche al rigore di Menez al 92esimo di oggi. Sono dettagli perché questo Milan non... Parliamo anche di milioni di euro, di visibilità europea, di tante cose. Nel senso che è difficile immaginare un futuro immediato agonistico per questo Milan che ha l'elettroencefalogramma piatto, non vedo dove possa andare. Direttore, hai idea che ci possa essere qualcosa che Berlusconi e Galliani possano fare da qui al 15 maggio, al 21 maggio, compresa la finale di Coppa Italia, per cambiare in qualche modo il destino del Milan? Risponderei con la frase che è cara a Berlusconi nei momenti critici, quando si perde, in questo caso si è pareggiato, ma il pareggio con le Frosinone equivale a una sconfitta, è meglio stare zitti. È importante che Berlusconi non intervenga più, perché è intervenuto fin troppo in questa stagione. E l'effetto dei suoi interventi si è visto: le visite a Milanello, le paternali, bisogna giocare con il 4-3-1-2, le frecciate a Mihajlovic, che è stato messo in discussione praticamente da settembre. Mihajlovic ha lasciato la squadra al sesto posto in finale di Coppa Italia, traguardo inseguito da 13 anni, punto. Questi sono i dati di fatto. Dopodiché Berlusconi ha affermato che il suo Milan fosse il più brutto mai visto sulla faccia della terra, e lo ha cacciato in maniera invereconda, e questi sono i risultati. E Brocchi non c'entra niente, perché Brocchi è stato caraventato e mandato allo sbaraglio, come venne mandato allo sbaraglio Inzaghi, come è stato mandato allo sbaraglio Seedorf. Il problema è un altro. Però direttore, la scelta di fare la quarta partita su quattro con il trequartista, quando è evidente che questa squadra il trequartista non lo può reggere, alla fine è di Brocchi. Sì, è di Brocchi. Se vogliamo trovare, è pilotata. Alla fine è lui che mette tu devi fare così. Questo non accadeva. È chiaro, infatti, perché è stato cacciato per questa ragione, perché Mihajlovic diceva: faccio l'allenatore, se vuoi mi mandi via. Esatto, perché Mihajlovic diceva: l'allenatore sono io, se volete giocare, se vuoi mi mandi via. E lui l'ha fatto. Così è accaduto, come era accaduto con Seedorf, così come era accaduto con Inzaghi. Ma ripeto, 5 allenatori nell'arco di 27 mesi sulla panchina del Milan. Ma noi non dobbiamo mai dimenticare cosa sia stato il Milan. Perché nel momento stesso in cui si ripete, si sottolinea l'ingratitudine dei tifosi rossoneri nei confronti di questa gestione che li ha portati sul tetto del mondo, ma certo che li ha portati sul tetto del mondo nei primi 25 anni, ma sono 5 anni che il Milan inteso come società non becca palla. E questi sono i risultati. Terza esclusione consecutiva dalla Champions League per una squadra che di Champions League ne ha vinte 7, e soprattutto le conseguenze a livello di bilancio saranno pesantissime, perché i numeri che sono stati dati al Consiglio dall'Assemblea dei Soci, con quel passivo pazzesco di 91 milioni di euro sul groppone, per non dire poi dei quasi 300 milioni che Fininvest ha iniettato negli ultimi 3 anni, e giustamente non vuole più farlo, perché altrimenti è una continua perdita di denaro. Cioè, questo impone una svolta radicale. Soprattutto bisogna prendere atto che dall'altra parte, mi riferisco ovviamente alla Juventus, c'è una distanza abissale in termini di programmazione. Ma la Juventus l'altro ieri ha riscattato le Milan, sì, dal Marsiglia. Cioè, il campionato finisce il 15 maggio, la Juventus ha appena conquistato il quinto scudetto di fila, e cosa fa? La prima cosa, riscatta le Milan. Sì, noi invece abbiamo appena sentito Di Francesco, che era il numero uno forse sulla lista, non si sa di chi, all'interno del Milan per la panchina del prossimo anno, e che alla fine si è scocciato di aspettare, ha rinnovato con il Sassuolo. Oggi abbiamo letto che anche Lippi è un'ipotesi che si allontana. Poi ognuno decida se piaceva o no l'ipotesi di Lippi. Il problema è che si allontana per delle ipotesi sugli allenatori. Non sai che razza di società sarà, quindi è del tutto prematuro parlare di altri allenatori, parlare di mercato, parlare di budget, parlare di tutte queste cose, quando non sai oggi quale sarà il futuro del Milan. Quindi mi sembra tutta aria fritta. Cioè, l'idea di scegliere un nuovo allenatore mi sembra totalmente fuori luogo. Non è la prima questione sul tappeto. No, neanche la seconda o la terza. È la cessione della società in questo momento, ed è auspicabile che avvenga nei tempi più rapidi possibili, perché altrimenti la cosa che secondo me irrita maggiormente i tifosi milanisti sono le parole che sono state spese in questi anni, e da quando c'è il web le parole sono immortali, perché se clicchiamo su Google Berlusconi, Milan, squadra più forte, troviamo centinaia di voci, dichiarazioni che vengono datate in ordine cronologico, in cui abbiamo ascoltato: sto monitorando personalmente i 100 migliori under 23 del mondo, questa squadra contenderà lo scudetto alla Juventus, abbiamo preso Mihajlovic perché è il tecnico che ci porterà a batterci per il titolo, vinceremo la Coppa Italia, bla bla bla. Ma perché invece non si è detto da anni ai tifosi del Milan che, stante la crisi economica, stante l'impossibilità di essere ai livelli che il Milan, il primo Milan di Berlusconi, aveva raggiunto, ci sarebbe stata una rivoluzione radicale, scegliendo un allenatore, fidandosi di questo allenatore, giudicandolo alla fine del suo contratto e non cacciandolo via o dopo 6 mesi o dopo 8 mesi e cambiandone 5 per fare un salto nel buio. Questo è il dato di fatto. E poi in tutto questo non si tiene in considerazione l'opinione dei tifosi. Cioè, se i tifosi sottoscrivono una petizione elettronica che raccoglie migliaia di consensi in settimana per chiedere il ritorno di Mihajlovic, ma hanno sacrosantamente ragione dal punto di vista della storia del Milan. No, è uno shock questo continuo. Sì, posto direttore, però questo è il mio parere, che non sì. Si mitizzi quello che ha fatto Mihajlovic, che ripeto, anche all'andata con Frosinone, Cardi, Verona, insomma, non c'era ragione di sollevarlo dall'incarico. Ragione c'era, non c'era ragione in quel momento. Dopo la finale di Coppa Italia. Aspettate che voglio coinvolgere anche Mario Ielpo, che ci sta ascoltando. Mario, ciao. No, buongiorno a tutti. Ascolta, tanto faccio chiudere il pensiero al direttore Iacobelli e poi lo ringraziamo e lo salutiamo. Direttore, intanto saluto anch'io Mario Ielpo. Tu quindi saresti per un ritorno di Mihajlovic oggi, no, a gestire sarei, le ultime due partite più per la finale di Coppa Italia. Vabbè, ho capito, ma l'hanno cacciato, quindi adesso sì, no, ma voglio dire, in questo momento qui, certo, farlo ritornare, soprattutto perché gestisca questo momento così delicato e perché ha quantomeno la grinta e il cipiglio per prendere in mano la situazione, e sarebbe la soluzione più logica, ma dubito che questo avverrà, perché vorrebbe dire confessare ciò che è stato deciso non più tardi di 3 settimane fa. Credo sia impossibile. Grazie direttore. Ciao, direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a Xavier Iacobelli. Intanto Adriano Galliani ha avuto un lungo confronto con la squadra. Alla fine partita l'amministratore delegato è rimasto chiuso nello spogliatoio con i giocatori per circa mezz'ora e aspettiamo che arrivi Brocchi e i microfoni di Sky. Mario, tu richiameresti Mihajlovic? Dai, andiamo dritti al punto. 800 24 00 24. Ma lo chiediamo anche agli amici a casa, se comunque il Milan deve ripartire da Sinisa. In ottica campionato no, visto che c'è una partita importante, che è la finale di Coppa Italia, sì, credo che Mihajlovic abbia dimostrato di non essere magari un grandissimo tattico, non so come vogliamo dire, cioè insomma quella parte lì diciamo che è stato normale, ma almeno il Milan, se lo giudichiamo attraverso il Milan, insomma, anche attraverso le sue esperienze precedenti, però ha dimostrato di saper tenere un gruppo difficile in una situazione difficile, cioè di essere un condottiero adatto alla tempesta. Secondo me questo l'ha dimostrato, e quindi avendo una partita secca da poter giocare per raddrizzare la stagione, in questo senso sì. Io però direi anche che questo dal punto di vista insomma delle speranze dei tifosi o per fare risultato, ecco, però mi sembrerebbe dal punto di vista della società un dietrofronte incredibile. Atto estremo di zamparinismo. Cioè. Esatto, cioè, a me mi sembra impossibile che succeda. Poi dopo, ormai, non lo so, il mondo Milan si è stravolto e vediamo delle cose che pochi anni fa nessuno avrebbe pensato immaginabili. Il Milan era la squadra più ambita, adesso come vedi, come hai detto anche voi prima, cioè, nascono delle voci su giocatori o allenatori e poi scompaiono, si distorcono, perché molto probabilmente non ha più questo appeal, cioè è una piazza dove la gente si brucia. Ma tu hai la sensazione che Brocchi non abbia in mano oggi il mitologico spogliatoio, la squadra, insomma non riesca in ogni caso a far passare né concetti né stimoli? Non lo so, certamente è difficile avere un... Il problema del Milan è che ha dei grandi ex giocatori e dei giovani alle prime esperienze. Questo comporta un mix terribile, perché gestire dei grandi ex giocatori, non voglio dire che siano ex come giocatori, ma diciamo ex grandi, non è facile gestire Menez, Balotelli... Che si credono dentro di loro ancora dei grandi campioni, e che però Boateng, e che però poi sul campo non danno questa dimostrazione. È la cosa più difficile per un allenatore, perché deve far tornare umili sulla terra, accettare di non giocare, e quindi questa è la cosa più difficile secondo me che un allenatore Mario, può fare. Sembra più che altro che il Milan sia un'ex società, che sì, il principale problema nasca da lì. No, certo, ma io parlavo adesso dal punto di vista proprio di Brozzi, sì, è difficile, è un mix esplosivo, perché se tu hai tutti i ragazzi è molto facile gestirli, se tu hai dei campioni ancora forti dal punto di vista proprio della prestazione, vanno in campo e fanno tutto loro, e quindi chiunque li gestisca è facile. Il problema è qui che invece ci sono gente che è un po' a fine carriera con dei problemi, che magari che non riesce a esprimersi e che quindi poi si crea ansia, eccetera. Oggi è stata la partita dell'ansia del Milan, no? Che errori clamorosi senza giustificazioni, e quindi insomma mi sembra. E poi è chiaro che, tornando al tuo discorso, il problema fondamentale è del manico, questo è evidente. Quando non c'è la barra dritta sopra, a volte sembra che se qualcuno consiglia un allenatore o un giocatore, un'altra parte della società sia contenta se quel giocatore o quell'allenatore faccia male. Sì, c'è proprio un problema interno alla società, sì, in questo momento. Sì. Giro alcuni dei messaggi: 349-238-6666. C'è chi contesta che Balotelli e Menez siano mai stati grandi giocatori. In realtà, oggi Balotelli qualche segnale di vita l'ha dato, al di là del rigore sbagliato, della traversa al 95esimo. Mi è sembrato comunque, per quello che abbiamo visto, Mario, io non so, correggimi se sbaglio, mi è sembrato comunque presente in partita, cioè con anche la voglia di provare a spingere la squadra nei momenti di difficoltà, o abbiamo visto male? Va dato atto secondo me a Balotelli di starci con la testa, cioè effettivamente si vede che lui cerca di far bene. Secondo me lui non posso visto da fuori, cioè non ha capito che tipo di giocatore è. Lui pensa di essere un giocatore di classe, diciamo così, lui invece è un giocatore di fisico, che non sa fare il centravanti. Secondo me lui dovrebbe giocare oggi. Che voto gli dai, Mario, a Balotelli? Ma lo so, è difficile dargli più di una sufficienza proprio stiracchiata. Beh, ma è già tanta roba in una partita in cui prendi tre gol in casa da Frosinone, no? No, certo, però secondo me lui dovrebbe giocare da lontano col suo strapotere fisico, dovrebbe fare il tornante quasi, dovrebbe giocare come giocava Niang. Se lui riesce a giocare come giocava Niang nel Milan, e lui che ha una dote poi tecnica maggiore di Niangola, diventa un giocatore importante. Centravanti non lo sa fare, se no appunto un giocatore di lampi, che insomma, in ogni momento può far gol, però insomma anche un giocatore che si perde un po' durante la partita. Sì, e poi è anche il simbolo della confusione di questa società, che sta aspettando una scintilla per decidere se confermarlo o meno. Ma no, Mario, io credo tu lo confermeresti? Dammi un flash, perché mai, poi siamo in pubblicità. Mai si è riuscito a liberare di un problema economico come quello di una gestione di un giocatore che non rende più per il contratto che ha. Mi sembra un assurdo. Quindi lasciamo il problema al Liverpool, giustamente. Certo. Giustamente. Grazie Mario. Ciao Mario. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie Mario Ielpo. 800 24 00 24. Sì, io sono qui che sto aspettando, cioè da tre giornate. Sì. Mi fate sempre aspettare. Questo ma perché c'è Brocchi adesso? Non è una cosa vera. Ma magari Sinisa ti richiama. Ci torni o no se ti richiamano al Milan? Adesso no, io voglio dire, perché io sono tipo sportivo. Sì. No, io non voglio parlare male di colleghi come fanno altri. Oggi si è visto in campo la squadra di Brocchi. È una squadra sicuramente fatta immagine e somiglianza a quella squadra di Brocchi. Però non è elegante, diciamo. Io sono veramente dispiaciuto. Non è elegante. Sono molto dispiaciuto. Facciamo... Chi non salta Brocchi? Chi non salta Brocchi? Torniamo subito a 800 24 00 24. Chi non salta Brocchi? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta. Tutti convocati. 800 24 00 24. C'è chi scrive: ragazzi, mi sono appena collegato, è già intervenuto qualcuno, Franco Ordine, per parlare di Balotelli all'Europeo. A me Balotelli oggi non è dispiaciuto, anche se ha sbagliato un calcio di rigore, però ripeto, in un pomeriggio partite in cui poteva davvero finire malissimo. Partita ingiudicabile per Balotelli, per il Milan, un disastro. No, giudicabilissima, giudicabilissima. Cosa vuoi salvare? Cosa vuoi salvare in questa gara? Beh, ad esempio io salvo gara. Un po' di Balotelli, tra le poche cose. Un po' di Balotelli, ma sai, pareggi in casa col Frosinone dopo essere stato sotto per gran parte della partita, è molto difficile salvare qualcosa in questo Milan. Cioè, onestamente, una squadra che ha un minimo di orgoglio o un obiettivo preciso, che non è poi un obiettivo irraggiungibile, quello del sesto posto dell'Europa League, questa partita la porta a casa senza problemi. Poi c'è chi dice: l'operazione Brocchi è stata fatta per stabilire se fosse capace e decidere se affidargli la squadra per la prossima stagione, ma non lo so. Claudio da Brescia, 800 24 00 24, chiamate, prenotatevi, siamo qui fino alle 19. Claudio, prego. Buongiorno. Io penso perché per chiunque faccia l'allenatore del Milan sia difficile la convivenza con Berlusconi, perché uno che ti può fare la formazione è difficile da convivere. Forse l'unico che riusciva a tenere testa è stato Ancelotti, però dopo di lui tutti hanno dovuto piegarsi a uno che vuol fare la formazione, vuol dire la sua, entra in spogliatoio e dice vincere, vincere, vincere, troppo difficile, per cui... Beh, questo storicamente, storicamente, però ci sono anche allenatori, ultimo della serie, Massimiliano Allegri, che ha vinto, è riuscito a vincere anche con Berlusconi, pur non essendo mai stato particolarmente amato dalla proprietà. Poi il declino, se posso dire un'altra cosa, è cominciato quando Pirlo è stato ceduto a una diretta concorrente. Certo, è una roba ormai quasi storica, perché sono passati tanti anni, però da lì poi è stato un declino continuo e... quasi niente. C'è anche stato quel passaggio della cessione in poche ore di Thiago Silva e Ibrahimovic, perché poi, per carità, lasciare libero Pirlo è stato un errore, però ci sono anche, ripeto, le decisioni di Fininvest e di Berlusconi, cioè che il Milan abbia ridimensionato. Quello è stato il segnale. Quello è stato il segnale. Perché sennò, secondo me, si scarica tutto su Galliani, che per carità è colpevole, io non sono qui a difenderlo, però si scarica tutto su Galliani, si dimentica che i budget li mette a disposizione la proprietà e si dimentica che comunque, per quanto non quello che abbiamo visto in queste quattro partite, non è che il Milan di Mihajlovic contro Carpi, Frosinone e Verona all'andata abbia fatto chissà quali punteggi. Pier, ciao! Ciao, pardon. Bene, stiamo facendo il processo al Milan. Ti giro subito il messaggio di un amico che ha scritto alle 5. Per favore, potresti far ripetere a Pardo le belle parole che ha detto un mese fa su Brocchi? Claudio dalla Polonia. No, ma a livello mio non sono mica uno le fette di prosciutto sugli occhi. Che Brocchi non stia andando bene, questo è indiscutibile. Io quello che ti posso dire è che su Brocchi c'era un livello di fiducia molto molto forte per il lavoro, per l'impostazione del lavoro a livello di giovanili. Adesso francamente, insomma, mettersi a dare le colpe eccessive a Brocchi secondo me è sbagliato. Certamente dopo quattro partite la valutazione va fatta e non è una valutazione positiva, quindi sicuramente in questo momento, se tu mi chiedi se il risultato alla mano è stata una mossa intelligente, non è stata una mossa intelligente. Io pensavo perché la reazione del gruppo mi sembra sia stata abbastanza chiara, no? Cioè, aspettate che intanto c'è Brocchi su Premium Media, sentiamolo. È voler dire non aver visto bene la partita. Il Milan non deve prendere tre gol a San Siro, il risultato non è sicuramente un risultato che può essere considerato bello, ma non possiamo dire che il Milan ha subito, non possiamo dire che il Milan oggi è stato disunito, e la foto che ho visto anche delle posizioni in campo non è una foto che corrisponde alla realtà, perché ne ho un'altra. No, Cristian, scusa, ne ho un'altra diversa. Io naturalmente rispettiamo le opinioni, qui ne parliamo ed è giustissimo che Io rispetto le vostre. È giustissimo che tu anche replichi, è giustissimo. Queste posizioni sono raccolte da un grafico che viene elaborato da anch'io un grafico che viene elaborato e c'è una spiegazione anche su questo, però esatto. Sono dati che noi solitamente utilizziamo sulla base di annotazioni statistiche che sono considerate autorevoli. Poi è no autorevolissime, non lo metto in dubbio, e se vuoi ti do anche la spiegazione di questi dati. Sì, perché sì, questa sì. Soprattutto nel primo tempo il nostro gioco logicamente partiva da una parte e andava dalla parte destra, dove noi avevamo tanto campo dove potevamo sfruttare. In realtà abbiamo creato diverse occasioni da quel lato lì, e quindi il fatto di portare Montolivo davanti ai due difensori e la posizione di De Sciglio dentro nel campo in quella posizione era dovuta al fatto che quando Abate dà massima ampiezza, logicamente De Sciglio deve stare dentro nel campo. Quindi, siccome abbiamo spinto molto da quel lato lì nel primo tempo, era normale che la posizione di De Sciglio no? Risultasse sempre all'interno del campo in quella posizione. Era normale che Montolivo riempisse. Si discute di grafici tra Brock, sembrano dettagli Brock, dopo, Brock mi pare, dopo però un 3-3 in casa col Frosinone un po' più nervoso del solito, cosa del resto ampiamente comprensibile. Pier, aspetta, Antonio da Isernia. Antonio, sì, eccoci. Buonasera. Pronto? Prego. Sì, senta, io volevo esprimere oggi una mia opinione che ce l'ho in mente da più di qualche anno a questa parte, e i fatti mi stanno dando ragione volta per volta, i fatti, quelli che si toccano con le mani, e vale a dire che Berlusconi e Galliani insieme, contemporaneamente, cioè nello stesso tempo, ci hanno letteralmente stufato. Io auspico che la curva sud del Milan, quella diciamo che fa capo a Giancarlo Capelli, sì, vabbè, insomma, dai, gli ultra sesso, prenda una iniziativa seria. Io a questo punto mi domando se anche quest'anno il Milan è fuori dall'Europa. Rispondetemi. Probabilmente sì, però non devono, non devono prendere alcuna iniziativa agli ultra, deve prendere la società. Non devono avere, secondo me, voce in capitolo in alcun modo con poteri decisionali. Sì, assolutamente, ma secondo me si estende anche il discorso che facevamo prima con Xavier Iacobelli, Mario Ielpo, cioè sull'eventuale ritorno di Mihajlovic per il finale di questa stagione. Cioè, io non so, Pier, come la pensi tu, se possa avere un senso ritornare indietro, ammesso che sia possibile, perché lo chiedono i tifosi. Ma no, ma perché, allora, sinceramente, ho premesso che c'è una coppa da giocare, quindi bisogna pure capire quella che è la soluzione migliore per arrivare a giocare questa finale di Coppa. In generale, in assoluto, sarebbe un errore. È stata fatta una scelta, ed è stata fatta una scelta in una situazione in cui Mihajlovic comunque non aveva soddisfatto. Poi era abbastanza presumibile, ed è confermato dai fatti, che non fosse solo colpa sua, perché la situazione, se possibile, in queste quattro partite è addirittura peggiorata. Numeri alla mano, io sono laico in questo, i numeri sono ancora peggiori di quelli della gestione Mihajlovic, che però non aveva fatto delle cose buone. Quindi richiamare Mihajlovic ora, quando è stato praticamente sfiduciato, non ha, se dal punto di vista della logica, è una follia. Poi, se si pensa a un certo punto che questa cosa possa causare una scintilla, uno shock positivo per i giocatori, per carità, il file giustifica i mezzi, ma però sarebbe una roba senza alcun senso. Secondo me invece ha molto senso, Pardo. No, ha molto senso, e tu non sei laico, tu sei laido. Come laido? Tu non sei laico, perché io faccio sempre bene. Stai, e questa cosa non va bene dire. Sinisa, se aspetti qualche minuto, poi ti facciamo parlare. Aspetta. Io sono qua che aspetto da tre giornate. Mettiti in coda. Prima del traffico. Ha goduto Sinisa? Sì, ma l'ha già detto prima. Io sono molto sportivo. Chi non salta? Aspetta che saluto Gianni De Biasi, che ringrazio. Mister, ciao, buon pomeriggio. Ciao, mister. Ciao, buon pomeriggio a tutti. La domanda per te, ma ci rispondi dopo il traffico, è se hai l'impressione, da osservatore esterno, che lo spogliatoio abbia scaricato in partenza Brocchi, e anche in questo ci sia ad esempio una parte della spiegazione per i 5 punti in 4 partite che ha fatto Brocchi alla guida del Milan. Traffico, poi la risposta. Tutti convocati. Tutti convocati. Poi proseguiamo con tutto il processo. Sono tanti che stanno scrivendo. 349-238-6666. Il problema del Milan e Galliani. Poi c'è anche chi dice: in tutto questo Barbara Berlusconi non ha colpe. Da quando c'è lei in società o vicino alla società che le cose stanno andando in una certa maniera. 800-24-00-24, però mi interesserebbe restare sul campo. Vai su Premium. Sì. Vai su Premium, che c'è un altro momento volendo. Ci siamo, dai. Non sono d'accordo. Poi a Verona abbiamo giocato una partita. Si può non essere d'accordo. Ma bravissimi, bravissimi. Può, io no. Ho detto che non sono d'accordo. Ed è anche molto rispetto. Bello, scusa, te lo dico, visto esatto. Che è la prima volta, anzi mi permetto, ti ho dato del tuo, anche se ci siamo solo intravisti, è molto bello anche poterlo fare in questa maniera, perché comunque anche dopo un risultato non del tutto positivo, con una traversa all'ultimo minuto che poteva cambiare qualcosa, forse anche nei giudizi generali, di solito non qui, dove non ci basiamo solo sui risultati. È molto apprezzabile tutto questo anche da parte tua e il fatto che qui possiamo condividere queste opinioni. Ma infatti io lo dico proprio perché le persone che ci sono lì le ascolto sempre e vedo che hanno una valutazione della partita che va al di là del risultato. Solo ed esclusivamente per quello mi permetto di fare poi certo. una riflessione e di dire il mio punto di vista. No, è perfettamente corretto, Cristian, non c'è nessun tipo di problema. Quello che io dicevo prima, perché vedendo giocare il Milan con questo sistema di gioco, soprattutto quando gioca Balotelli in coppia con Bacca e con Onda, siamo alle questioni tecniche. Allora, sentire Gianni De Biasi, ecco, cosa lo riassumo, ne pensa comunque, di questa situazione. La grafica che non è piaciuta a Brocchi è una grafica in cui sostanzialmente il Milan non ha le fasce, gioca praticamente senza fasce. Queste erano le posizioni medie del Milan in campo oggi contro il Sassuolo. Allora Gianni De Biasi, intanto una tua opinione su questo momento del Milan. Ma è un momento di grande confusione secondo me nel Milan, perché il Milan aveva dal calendario sicuramente un grande aiuto. Giocare con il Carpi in casa e con il Frosinone in casa sicuramente non erano partite proibitive, perché se consideriamo partite proibitive queste è meglio che smettiamo di parlare. E poi ha perso a Verona, e questa contro una squadra che praticamente è retrocessa, anzi matematicamente retrocessa. Io credo che lì ci sia un po' di confusione, che qualcuno abbia generato altra confusione. Quando tu dai degli alibi ai giocatori tutto diventa più difficile da gestire, perché quando il capro espiatorio è solo l'allenatore o si vede solo la squadra giocare male, sentivo anche prima Pierre dire che il Milan quest'anno non ha giocato bene, ma probabilmente la botte dà il vino che ha, non è che con un altro allenatore magari aveva 2 o 3 punti in più, ma la sostanza delle cose è che è una squadra che ha qualche carenza, secondo me. Gianni, ma cosa significa da un punto di vista emotivo questo rendimento? Perché secondo me ovviamente non è una questione tecnica, non è una questione tattica e forse nemmeno fisica, ma è una questione puramente emotiva. Cosa vuol dire avere questo rendimento dopo il cambio dell'allenatore? Vuol dire che il gruppo stava con quello che c'era prima? È per me la domanda? Sì. È che il gruppo probabilmente non ha reagito nella maniera migliore di fronte a una scelta che probabilmente il gruppo stesso ha reputato non giusta e quindi non c'è stata questa reazione. Probabilmente lui non ha avuto, probabilmente Brocchi non ha avuto la fortuna, la pill di entrare con le giuste parole e porsi nei confronti del gruppo nella maniera ideale. È chiaro che le condizioni non erano favorevoli, sapeva anche lui che andava a prendersi una gatta difficile da mettere in pista, però chi rinuncia a un'opzione e a un'opportunità così importante? Ma adesso, senza chiederti se tu riporteresti in panchina Mihajlovic, perché ovviamente non ha nessun senso come domanda, ma è una mossa che eventualmente dal punto di vista emotivo, psicologico, può avere senso dentro uno spogliatoio non abituato nemmeno a questo tipo di gestioni? Perché chiedo la poi Zamparini, magari esatto, De Biasi, uno gioca e lavora in una squadra abituata da metà classifica in giù, dove magari ti può capitare ogni tanto che ci siano stagioni così, però questo il Milan non dovrebbe essere abituato, cioè quello spogliatoio non è abituato. Ha un senso ragionare di questa ipotesi? Credo di no, anche perché non è che si è messo così in difficoltà un giovane tecnico che ha le sue qualità e che probabilmente in questo momento non ha gli strumenti in mano per poter gestire una situazione che in questo momento probabilmente gli sfugge di mano, è più grande di lui. Mettilo all'inizio della stagione e dagli fiducia al 100%, esposane quella che è la linea che lui mette in campo e poi dagli una mano. Come faceva il Milan all'inizio? Ricordatevi Sacchi poteva essere esonerato prima. Dopo la famosa partita con l'Espagnol. Bravissimo. Giocavano a Lecce, se non ricordo male, in campo. Giocavano a Lecce, non so per quale motivo, in campo neutro, se non ricordo male. Però il Milan ha sostenuto l'allenatore e lì si è dimostrato una squadra che ha idee per vincere. E se tu metti in discussione l'allenatore e ogni volta che c'è un risultato negativo sei il primo a metterlo in discussione, è normale che si butti una situazione di difficoltà in tutta la società. Pier. Sì, io sono d'accordissimo, io ribadisco, penso che su Brocchi ci fosse una curiosità profonda da parte di Berlusconi e dell'ambiente Milan di misurarlo prima o poi. Certamente la situazione di partenza è una situazione molto complicata, molto difficile, certamente non sta facendo bene, è inutile girarci attorno, però francamente insomma, io credo che queste sei partite con la finale di Coppa Italia, che certamente non è un dettaglio perché è la possibilità di vincere un trofeo, quindi è qualcosa di molto importante, siano state utilizzate per provare a misurare le possibili qualità di questo allenatore a fronte di una storia che, giusto o sbagliato, colpa di Mihajlovic, colpa di Berlusconi, colpa di Galliani, colpa dei giocatori, fate voi, ma era finita, perché il rapporto fra Berlusconi e Mihajlovic era ai limiti. Quindi in ogni caso quella strada lì non era proprio più interessante percorrerla, secondo me, per il presidente. Giusto o sbagliato che sia, ripeto, e quindi è stato fatto questo tentativo. Il tentativo ad oggi sicuramente non sta funzionando. Sì, tentativo che credo ipotechi anche il futuro di Brocchi sulla panchina del Milan. Mi pare di poterlo dire. Poi, per carità, oggi non sappiamo cosa sarà il Milan domani, già dal punto di vista societario, figuriamoci sulla panchina. Però è difficile sopravvivere a un finale di stagione così. Prima di salutare Gianni De Biasi, gli voglio chiedere di Ranieri. Oggi niente festa, magari domani. Si vedrà. Magari domani sera riusciamo a festeggiare tutti insieme per un'impresa straordinaria che un allenatore italiano riesce a fare nel campionato più importante, secondo me, a livello mondiale. Credo che sia una bella storia di calcio, una bella storia di valori, perché spesso e volentieri si vince anche con le squadre piccole, non succede spesso, in Italia è successo solo con il Verona anni e anni fa, oggi sarà sempre più difficile, viste le distanze dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista economico. Sì, allenatore partito dall'Italia non con l'etichetta migliore. Bene per lui, io sono molto contento, sono amico con Claudio e sono molto felice per lui, gli scrivo ogni volta, ogni domenica, a fine di ogni oggi partita. Gli hai scritto? Ma adesso gli ho detto dai, che magari l'avete posticipata solo di 24 ore. Lo penso anch'io, anche se sarebbe stato bello festeggiarla sul campo. Sarebbe stato bello vincerlo il primo maggio, perché sì, è proprio la festa del lavoro. Cioè ma voi siete dei romantici, ma cosa vuoi che gli frega Ranieri? No, veramente niente. È il trionfo dell'impegno sul talento, perché con tutto il rispetto per Vardy, per Mahrez, per Drinkwater, che sono ottimi giocatori, però io continuo a pensare che l'Ester non sia la squadra più forte d'Inghilterra, e però sta vincendo. La Brian va in paradiso, c'era un film, questo è un meraviglioso attacco per un pezzo, caro Piers. A Ranieri va bene anche vincerlo alle 4 di mattina, sì. Certo, gli mandi un SMS e gli consegni il trofeo. Grazie Gianni De Biasi. Ciao Gianni. Grazie a voi. Ciao Gianni. Dimmi Pier. Perfetto per Tiki Taka. Sì, fatto apposta. Ho notato che già lo scudetto la settimana scorsa di lunedì, quello italiano. Tutti gli scudetti in contumacia, poi la gente si arrabbia, tutta colpa delle televisioni. Come sì, no. Scudetti in contumacia, discorso che abbiamo già fatto. Allora, abbiamo un minuto, Claudio della provincia di Milano. Claudio. Sì, ciao a tutti. Dai. Innanzitutto i complimenti velocissimi, tutti siete bravissimi. Volevo dire questo. La società Milan, secondo me, io sono abbonato e vengo dallo stadio, no comment, sì. Ma non è che non vuole un allenatore forte, con un carattere forte, ma non riferito ai giocatori, proprio come la società, come nelle grandi aziende che si prendono i manager yes men. Ciao, volevo sapere cosa ne pensavate. Ciao a tutti. Se la società è Silvio Berlusconi, soprattutto negli ultimi anni, credo che la risposta sia sì. E poi abbiamo assistito a dei balletti anche per le scelte degli allenatori, perché negli ultimi quattro alternativamente un allenatore era di Galliani, un altro era stato etichettato come allenatore di Mihajlovic, di Berlusconi. Ma poi più o meno sono finiti male tutti, Pier. Allora abbiamo il GR, ci fermiamo, Pierluigi Pardo resta con noi. 800 24 00 24, prenotatevi, siamo in onda fino alle 19, poi facciamo un salto anche in Inghilterra per raccontarvi questi 90 e passa minuti davvero straordinari, emozionanti di Manchester Leicester. GR. Io sto qua da 10 minuti e vengono sempre tutti davanti. Tutti convocati. Tutti convocati. Primi 20 minuti che sembrano quasi incubi notturni. No, non incubi notturni, ma logicamente alla prima, appena inizia la partita, in un momento comunque delicato, ti giri e prendi gol, logicamente c'è stato un momento di sconforto e quindi qualche minuto di difficoltà. Il Milan non deve prendere tre gol a San Siro. Dire che oggi il Milan è stato disunito, dire che oggi il Milan ha concesso tanto, è voler dire non aver visto bene la partita. Questo Brocchi, 8-0-0-24-0-0-24. Se concedeva tanto al Frosinone, cosa succedeva? Ha fatto una buona partita davanti, vero? Il migliore in campo è stato certamente il portiere del Frosinone, su questo non c'è nessun dubbio. Lo so Giovanni, ma fai 3-3 in rimonta all'ultimo istante, all'ultimo respiro, con un rigore che non c'è in casa con il Frosinone, l'unica cosa che devi fare è dire siamo indifendibili, oggi un disastro. Pure. Secondo me si può anche ricordare, come fa un amico, al 349-238-6666, che Mihajlovic, che oggi viene richiamato a gran voce da tanti tifosi del Milan, nelle ultime 5 partite prima dell'esonero aveva fatto 3 punti e non giocando contro Barcellona, numeri, Bayern Monaco e Real Madrid. Pierluigi Pardo, ci sei? Sì? Ma infatti, guarda, adesso parafrasando il nostro amico Andro Bercu, cioè, famoso Harry Potter, diceva che qua la bacchetta non ce l'abbia nessuno. Il fatto che questa bacchetta non ce l'abbia Brocchi, cosa che è abbastanza evidente alla luce di quello che succede, non vuol dire adesso improvvisamente che andasse tutto bene prima. L'esonero è arrivato dopo una buona partita contro la Juve, una partita giusta contro la Juve, ma dopo un periodo veramente molto scadente, molto negativo. Quindi, più in generale, mi sembra di poter dire che il Milan è in rottura prolungata ormai da un paio di mesi. E che da questo punto di vista. Dal gol di Duncan a Sassuolo. Esatto, e da questo punto di vista, certamente il cambio in panchina non ha portato la scossa positiva che speravano ovviamente i dirigenti del Milan. Quindi, insomma, è tutto abbastanza semplice, ma adesso stare lì a capire qual è il meno peggio, francamente, secondo me ha poco senso. C'era una fiducia e c'è una fiducia complessiva nei confronti di Brocchi, secondo me, come persona che può avere le caratteristiche giuste per allenare questa squadra, e la si vuole provare. Per ora la prova sta andando male e vediamo che succede adesso nelle prossime. E poi si vedrà. Comunque noi giriamo anche agli amici da casa. La domanda: richiamereste o no Mihajlovic? Cioè ha un senso oggi dare questa quest'ulteriore scossa allo spogliatoio del Milan? Ezio Tabari. Ezio. Buonasera. Eccoci. Senta, io sono tifoso del Milan, ho anche giocato a calcio da anni, però ho una certa età. Sono anni che si continua a non investire, a non scoprire talenti e si dà la colpa agli allenatori. Ma i giocatori, se non si investe, se non si pesca il Dybala di turno o il Pogba, come mai non si riesce mai a beccare? Non c'hanno più nato. Secondo me la coppia di Berlusconi e di Galliani che oramai sono superati. Non riesco a vedere più il futuro. Sì, Ezio però Dybala è costato 40 milioni. Cioè... Il Milan quest'anno ha investito, il che da un lato rende ancora più drammatica la situazione, perché non è neanche una roba dove tu dici vabbè non c'è una lira e questa è l'austerity e amen. Quest'anno il Milan ha investito perché ha speso per Bacca, ha speso per Romagnoli, ha speso per Bertolacci, insomma ha fatto una campagna acquisti se non sbaglio da 80 milioni di euro che mi sembra Pierluigi, mi sembra una società chiaramente stanca in tutte le sue componenti, quindi il problema non è neanche la cronaca, il problema è il futuro, cioè cosa succede, anche perché in questa situazione Brocchi, Mihajlovic, Mourinho, Ancelotti, nessuno riuscirebbe a fare però questo è il cosa. Grande discorso che sta soprattutto e vediamo certo, cosa succede nei prossimi giorni. Questo è anche secondo me il punto se Berlusconi dirà sia i cinesi o no, però restiamo sul campo perché ci sono 2 giornate per tornare in Europa League e guardate che conta, ci sono degli amici che scrivono che il Milan si è tolto il problema dei preliminari facendosi superare dal Sassuolo, ma non è così, cioè il Milan non si può permettere di star fuori non solo dalla Champions ma continuativamente anche dall'Europa League, ci sono ragioni economiche di valore di un marchio, e poi c'è una finale di Coppa Italia da giocare, cioè cosa deve fare il Milan posto che l'esperimento Brocchi, il test Brocchi, chiamatelo come volete, fin qui non ha dato risultati, e questo secondo me è il tema, poi le questioni societarie evidentemente ci sono soprattutto, e vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Ernesto da Frosinone. Ernesto. Sì, buonasera. Senta, eccoci. Io sono di Frosinone, sono un tifoso della Lazio, in queste ultime giornate ho visto quasi esclusivamente il Frosinone e sono rimasto molto deluso dall'atteggiamento degli arbitri, dei fattori contingenti che veramente hanno condizionato questo campionato. Io ho visto Chievo-Frosinone una roba assurda, ho visto Carpi-Empoli, ho visto Carpi-Genova, E oggi anche Frosinone e Milan hanno dato due rigori al Milan e non hanno dato rigori a Frosinone. Allora, il primo rigore c'era, Ernesto, il primo rigore c'era, il secondo, quello decisivo, no, quello segnato da Menez, secondo noi no, cioè, per carità, tocca col gomito, tocca col gomito, ma stiamo parlando di una distanza di 50 centimetri. Su una girata, esatto. Secondo rigore al 90esimo dopo che ne ha dato un altro. No, ma il primo c'era però, Ernesto, adesso, così come ti diciamo che il secondo non c'era, il primo onestamente era calcio di rigore. Il primo c'era, il secondo secondo me no, secondo me più no che sì. Sono abbastanza d'accordo in generale sul fatto che, diciamo, il Frosinone non è stato fortunato, diciamo così. Non posso pensare che ci sia un complotto sinceramente a favore del Carpi contro il Frosinone, faccio proprio fatica a immaginare. Sì, e contro il Palermo anche, e contro il Palermo, che volendo è la piazza grande, adesso senza stare a ripescare Lotito e i suoi ragionamenti. Però è vero che qualche errore c'è stato in queste ultime giornate. Anche Carpi Frosinone, Carpi Genoa, che sono stati 4 minuti di recupero. La partita che ho commentato, sono i 4 minuti di recupero, proprio non si è capito perché. Poi in quei 4 minuti è successo di tutto, non Rizzoli non poteva sapere che in quei 4 minuti ci sarebbe stata espulsione e due gol del Carpi, però insomma sicuramente è un tipo di malumore che va registrato perché c'è stato. Poi chiaramente Frosinone è una piazza non così grande, per cui magari fa meno rumore di piazze più grandi, però è un malumore che esiste e che deve essere registrato. Anche perché di fatto il rigore di Menez ha retrocesso il Frosinone, dietro la classifica è... Volendo essere maliziosi, meglio che si salvi il Palermo rispetto al Frosinone, una che si salvi una tra Frosinone e Carpi va bene, ma tutte e due è troppo. Volendo essere maliziosi. Sì, però molto maliziosi. No, tutte e due non si possono salvare. Tutte e due comunque non si possono salvare. In generale. A meno che l'Udinese non si suicidi. No, è Carlo Genta che è un complottista, essere malizio, ma no, io sono tutt'altro che complottista. Una delle famose degli arbitraggi famosi è stato Carpi Frosinone, quindi può pensare che il Carpi abbia un peso politico superiore al Frosinone, però ecco, siamo proprio in un ambito di una roba che... Di una roba surreale, ma dai. Ecco, chiamatemi... Chiamate l'ambulanza. La classifica lì in fondo è Udinese 38 punti, Carpi Palermo 35, Frosinone 31. A questo punto per il Frosinone è veramente dura pensare di salvarsi. Attenzione, perché in caso di arrivo a pari punti tra Carpi e Palermo si salva il Carpi. Scontri diretti pari, vale la differenza reti generali, e la differenza reti tra Carpi e Palermo è cospicua e quindi non colmabile nell'arco di 180 minuti. C'è il traffico, poi c'è Giovanni da Napoli che ci sta aspettando, 800 24 00 24, poi andiamo anche in Inghilterra. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Citiamo il Benevento che per la prima volta nella sua storia ha approdato in Serie B, così rispondiamo ad Angelo. Citiamo il Crotone che per la prima volta nella sua storia ha approdato in Serie A, poi settimana prossima potrebbe essere raggiunto dal Cagliari. Hai sentito la dichiarazione di Juric? Anche lì c'è stato il caso. Sì, io direi, ma l'ho twittato ieri, direi che bene a Bodi che l'ha immediatamente stigmatizzato, si muova il giudice sportivo. Perché non si può rispondere quello che ha risposto Juric sul finale di stagione: siamo promossi, ho detto ai giocatori di fare un po' come vogliono, e a quello di Modena che gli diceva ma noi stiamo lottando, voi giocate con Latina, ha detto sono cazzi vostri, vedremo che cosa fare, se allenarci o meno. Non so come la pensi te Pier, ma per queste cose c'è un deferimento e c'è una squalifica a casa mia. Mi scusi Capuano, ma lei se deve esprimere un pochettino in maniera più sobria, perché ha detto una parolaccia. Lì il ragionamento, non va bene. Pier, interrompi sua santità. No. Mi scusi, Santo Padre, mi scusi. No, prego. Ma deve dire anche lei, Pardo, al signor Capuano che non si può esprimere con parolacce. Juric. Ha ragione. Ha detto anche cose che non posso ripetere. È un uomo volgare. Molto. No, molto. Come la pensi tu, Pier? No, io la penso che chiaramente bisogna impegnarsi. Il ragionamento di Juric era un pochino più sottile e diceva: io sono 9 mesi che sto, era un ragionamento preda l'adrenalina, la gioia del momento, secondo me sono 8 mesi che sto qui, che spingo, che li spremo come non si sa cosa, non voglio fare una cosa controproducente, cioè adesso fateci festeggiare un po', non posso rompergli le scatole pure adesso che hanno preso la promozione. Ma questo è sottinteso, Pierluigi, è tra le righe, no? Insomma, sicura, veramente non, diciamo, ci sono cose che non si possono dire. Esatto. Quindi da questo punto di vista sicuramente Juric ha sbagliato, ha commesso almeno una grande ingenuità. Certo. Si fanno e basta. No, secondo me non si fanno, no, non si dicono. Ma dai, ma è normale che una squadra promossa faccia fare. L'esempio ce l'abbiamo in Inghilterra, ragazzi. Cioè, ma come si fa a rispondere? Mi diranno se allenarsi o no, non esiste. No, ma questo non esiste. Sono professionista. Uno che pensava prima è diventato certo, come si fa a domandare quelle cose lì? No, però scusa Pier, la storia è andata diversamente. L'intervista del collega di Modena, adesso non prendiamo le cose al contrario. Fai complimenti a Juric. Gli dice che è un risultato straordinario, tutto perfetto, tanto che Juric gli dice ti ringrazio per i complimenti. Poi siccome Juric si infina in sto discorso, a un certo punto lui gli dice ma quindi cioè, hanno deciso i giocatori, cioè cosa fate, perché noi ci stiamo giocando la salvezza. E a quel punto Juric parte per la tangente e gli risponde in quella maniera lì che ho detto prima. Quindi adesso i giornalisti hanno mille colpe, ma se uno fa una domanda normale davanti a un allenatore che gli sta dicendo decideranno i giocatori se allenarci o no, scusa, no, Piero. Grave segnale di inesperienza, no, del pur bravissimo Juric, mettiamola ecco, così. Cioè, no, allora, c'è Giovanni dalla provincia di Napoli, ma saluto Paolo Ciarravano da Manchester. Paolo, ciao. Buonasera a tutti. Allora, sentiamo Giovanni dalla provincia di Napoli, che è lì che ci aspetta da un po'. Giovanni, prego. Buonasera, vi seguo tutti i giorni, complimenti di Cristini. Volevo dire, io qualche anno fa a Sconcerti disse che quando vedeva Scicinco fare un gol, la prima cosa che gli veniva in mente è che poteva essere l'ultima volta che segnava, perché lo riteneva un blocco, beato lui, vedeva qualche fantasma. Qualche mese fa, ad ottobre, voi avete avuto ospite Cosetti, che a proposito di Pogba e del suo valore disse Pogba con l'H finale, volendo dire che calciatore è, che valore è. Volevo sapere, ma che cosa ha visto questo Cosetti in Pogba per definirlo Pogba? Io se Crosetti ha definito Pogba un giocatore scarso, non mi pare proprio che questo rispecchi il pensiero di Maurizio Cosetti. Non se la prenda così tanto per quell'H finale, cioè, magari sarà stato riferito a una singola partita, no, a un momento, era riferito all'inizio di una stagione, all'inizio della stagione, come anche francamente che Sconcerti abbia detto che se c'era un brocco dubiterei. Non so, andremo a cercare in archivio con l'H. Parliamo di Inghilterra, andiamo in Inghilterra, dai. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare. C'è Martial, Anthony Martial non sbaglia alla prima palla giocabile dentro l'area della sua partita. Martial contro Ranieri. Nel blu, dipinto di blu. La Drinkwater, morbido sul secondo palo, la tocca Morgan, il tocco di Morgan, il pareggio dell'Ester, il gol del capitano, al secondo gol in questo campionato, di un'importanza incalcolabile. Una musica. Secondo gol importante, che domani alle 22:50 potrebbe regalare all'Ester il titolo. Paolo Ciarravano, Fox Sport. Ciao Paolo da Manchester. Ciao a tutti. Io ho la sensazione Ranieri sarà in aereo. Sarà in aereo. Durante la partita. È questa una delle storie fantastiche di questa. Ah, quindi non potrà vedere giornata. Neanche gli sarà recapitato al momento dell'atterraggio il risultato. Ma sarà in aereo quando dove va? Torna a Roma per motivi personali, ovviamente ha degli affetti, approfitta di questa mezza giornata di libertà e quando arriva, quando atterra, potrebbe scoprire di essere nella leggenda. E che la festa è 2000 km più a nord. È meraviglioso anche questo. Normalmente in questi casi c'è il capitano dell'aereo che provvede a tenere tutti aggiornati. Occhio, credo di sì. Paolo, tu hai la sensazione che il gol che abbiamo sentito, quello di Morgan, possa essere il gol del titolo? Io personalmente sì, anche leggendo a proposito di squadre che si impegnano, quello che hanno scritto gli inglesi in questa settimana sull'approccio del Chelsea alla partita col Tottenham. Ma allora, innanzitutto tra Chelsea e Tottenham c'è un'aspra rivalità che come dire è una certezza da questo punto di vista. Devo dire che la bellezza dello sport a queste latitudini sta proprio in questo, cioè che tutte le partite, anche le squadre che non hanno obiettivi raggiungibili da centrare, se le giochino al massimo. Guardate West Brom, che ha favorito in parte la marcia trionfale dell'Ester. In più c'è anche una rivalità aspra e secolare che divide le due squadre. Sarà partita vera, il Chelsea darà tutto quello che ha. Bisogna vedere quanto ci crederà il Tottenham, secondo me. Che il Chelsea dia tutto credo sia certo. Bisogna vedere quanto davvero ci crede il Tottenham. Il Tottenham vincendo terrebbe in vita questo campionato e, come dire, sarebbe lì a sperare nell'imprevisto scivolone dell'Ester contro l'Everton. In ogni caso, anche con la vittoria del Tottenham, ricordiamo, all'Ester mancano due punti per l'aritmetica certezza della vittoria. Questo era il primo di tre match point. Sì, e mi sembra che l'Ester se lo sia giocato nel migliore dei modi. Alla grande, perché lo United era partito fortissimo, è andato avanti subito, Schmeichel ha fatto una grande parata, lì l'Ester ha barcollato ma è rimasto aggrappato alla partita, non ha mollato quando il Manchester sembrava superiore. Come ha detto anche Ranieri, poi alla fine della partita, prendere il gol così presto forse ci è servito, perché ci ha svegliato, ci ha tolto forse un po' di paura, un po' di braccino e niente, ce la siamo giocata, perché tanto la partita la dovevamo riprendere. Pier, in qualche modo. Braccino che è assolutamente giustificabile. Sì, quando non si vince da tanto è difficile, quando non si vince da mai è ancora più difficile. Sì. Ma guarda, nella congiunzione astrale meravigliosa di questa stagione, che insomma, scaramanzia a parte, credo che porterà a Dama Ranieri, stiamo ovviamente tutti strafelici, c'è anche il fatto, secondo me, di aver poi trovato sulla strada delle squadre forti, ma non fortissime. Tottenham è una squadra fortissima come qualità di gioco sicuramente, ma una squadra ancora abbastanza inespressa dal punto di vista della personalità. Il pareggio, che poi di fatto, di quel discorso, che di fatto ha avvicinato il Tottenham al titolo, è il classico pareggio di una squadra forte che quella partita poteva stradominarla, ma che non l'ha vinta, e che poi nel secondo tempo, dopo Dawson, è diventata improvvisamente una partita complicatissima. Quindi secondo me c'è anche un po' di ciapanò da parte delle inseguitrici. Io sono ancora convinto che il Manchester City poteva in mille momenti rimettere in piedi questo campionato, non l'ha fatto. Insomma, le avversarie sono annullate una con l'altra, ed è bellissimo che sia così. Quindi, parte della congiunzione astrale, altrimenti esatto, non esatto. Altrimenti non quando ti capita che United, City, Chelsea, Liverpool, mettiamoci anche l'Arsenal, giochi in una stagione così deludente. Quando ti capita? Tutte contemporaneamente. Però la storia del calcio dice che poi queste occasioni bisogna saperle capitalizzare, saperle sfruttare. Certo. Il Leicester, come dire, ha avuto due dimensioni. Ha avuto la dimensione della squadra, come dire, sorpresa all'inizio dell'anno. In molti pensavano, io stesso non pensavo che riuscisse a durare così a lungo, dico anche atleticamente, oltre che mentalmente. Poi però c'è una seconda fase. Ranieri è andato a dormire, stasera va a dormire per la 100ª notte consecutiva in testa alla classifica. Cioè, è dal 23 gennaio che questi sono davanti e hanno dovuto gestire una situazione non da Leicester, e l'hanno saputo fare, cioè hanno saputo fare anche quello, cioè non solo l'outsider felice e divertente. Tante vittorie 1-0 proprio da grande squadra. Esatto. Gli 1-0 e hanno reagito alla sconfitta con l'Arsenal, che è il punto chiave, ragazzi. Sì, esatto. Perché contro l'Arsenal si fanno rimontare, come ricorderete, dopo l'espulsione di Simpson. Cosa succede? Colpo di teatro, siamo in tribuna stampa a sentire Ranieri cosa ci racconta. Ranieri ci dice: avevo promesso ai miei ragazzi che li avrei mandati a riposare per una settimana, perché c'era l'FA Cup e loro erano già eliminati, avessimo fatto i 9 punti nelle ultime 3 partite. Non li abbiamo fatti, ma ce li mando lo stesso. Da allora l'Ester non ha più perso e probabilmente ha vinto il campionato. 7 vittorie e 3 pareggi. Dopo una settimana dove sono andati dove hanno voluto, a Ibiza. Era stata una decisione pazzesca, sì, quella. Pazzesca. Fa parte pazzesca del grande racconto mitologico di questa stagione, di quello che Ranieri ha fatto per tenere insieme un gruppo anche davanti a quel tipo di pressione che era completamente sconosciuta. Poi c'è un amico che già si butta avanti, chiede l'Ester nella prossima stagione, quale sarà l'obiettivo realizzabile. Io credo che si ritornerà al passato, adesso non all'ultimo, penultimo, terzultimo posto, la salvezza all'ultima giornata, però forse dimentichiamoci no. Quello che abbiamo visto fin qui, dimentichiamocelo per il bene di tutti. È la quarta stagione soltanto in tutta la storia dell'Ester con l'Ester nelle coppe. questo vi dà lo spessore della per quei pochi che non è il Chievo che vince il campionato, cioè non è neanche il Torino, secondo me non è neanche la Lazio, ma forse peggio. Ma forse peggio del Chievo, perché ti dico, Pier, nelle ultime tre stagioni prima di questa il Leicester si è salvato all'ultima giornata l'anno scorso, praticamente con 7 vittorie nelle ultime 9, e nelle precedenti 2 stagioni di Premier League il Leicester era sempre retrocesso. Cioè, gli ultimi 2 campionati di massima divisione era retrocesso, l'altro anno si è salvato per miracolo, e quest'anno può fare il Nottingham Forest 38 anni dopo, qualcosa di assolutamente incredibile. In un'epoca completamente diversa, perché... Esatto. Perché se c'è una cosa che a me personalmente non piace del calcio moderno, tante cose che mi piacciono, sapete che sono a favore dello spezzatino, ma se c'è una cosa che non mi piace del calcio moderno è proprio questa allargamento continuo dovuto alla Champions League, essenzialmente dei ricavi delle grandi a favore delle piccole, per cui 20 anni fa o 30 anni fa poteva vincere lo scudetto il Verona, anche se lo scudetto il Verona, comunque lo scudetto il Verona era arrivato terzo l'anno prima, quindi è qualcosa fuori dai tempi, Pierluigi, no? questo il titolo dell'Ester sarebbe qualcosa fuori dai tempi, e che non è neanche replicabile, secondo me. No, credo proprio di no. Non penso è programmabile, magari è replicabile, sì, perché poi il calcio si fa con un pallone, però non è certamente programmabile in nessun modo. È una stella cometa, abbiamo fortuna. Grazie Paolo. Ciao Paolo. Ciao a voi, ciao a tutti. Grazie Paolo Ciaravano da Manchester. Pier, ti salutiamo. Sentiamo domani. Ciao. A domani, dopo il GR delle 14. Adesso ci fermiamo, pubblicità, poi torniamo. 800 24 00 24. Facciamo anche due conti in tasca all'Inter, a Mancini, che ha detto che la stagione non è disastrosa. Tutti convocati. Convocati. L'Inter al quarto posto, dietro a tre squadre che sono nettamente più attrezzate dell'Inter. Ha avuto 20 giornate straordinarie, dove voi le criticavate sempre, ci criticavate perché non ci sa. Abbiamo perso dei punti, ma la stagione dell'Inter è una stagione ottima fino ad ora. Abbiamo partorito un mostro, del disastro. Mi sono preso già le mie responsabilità, perché il mio obiettivo era quello di vincere o di arrivare terzo. Tu ti sei dato un voto insufficiente per la stagione, perché sei molto esigente. Perché... Sì, io sono molto esigente, quindi la mia speranza era quella veramente di ridare all'Inter la Champions League, quella che è il palcoscenico che si merita. Quindi devo valutare anche freddamente altre cose, e penso che non sia una stagione negativa. Disastro. Rimpianti ne parliamo sabato prossimo, poi vedremo quali possono essere, poi rimpianti. Noi non siamo mai entrati in campo per perdere o per perdere punti o per non arrivare terzi o per cercare di non vincere. Il calcio è questo, purtroppo si deve passare attraverso anche delle delusioni calcistiche, che non è come dicono la maggior parte dei giornalisti, la maggior parte di voi, che è una stagione disastrosa. Ecco, questo per cercare di... Voi lo dite, gli interisti devono sapere che non è così. Questo Mancini ieri, secondo me, ha fatto benissimo a rivendicare che la stagione dell'Inter non è disastrosa, perché penso che non sia disastrosa, però ha sbagliato bersaglio, non deve prendersela con i giornalisti, deve prendersela con tanti tifosi dell'Inter, che oggi, se gli chiedi se vogliono o no Mancini sulla panchina dell'Inter l'anno prossimo, ti rispondono grazie no, perché questa stagione è disastrosa. Disastrosa no, però è chiaro che è figlio di una grande illusione, che era quella del girone di andata. Sì, c'è stato un errore di prospettiva. Specchio deformante, quel girone d'andata dell'Inter. Secondo me la classifica non è bugiarda, cioè l'Inter è onestamente la quarta forza del campionato italiano. E non è neanche pessima, perché con 64 punti e 3 partite alla fine, un anno fa eri secondo in classifica. Le altre hanno corso davanti, adesso al di là della Juventus. Saluto Michele Dalai. Ciao Michele, buon pomeriggio. Tu con chi stai? Ciao, con Mancini o con, ripeto, non i giornalisti, i tanti tifosi dell'Inter che invece considerano deficitaria questa stagione? Ma io sto con l'intervista di Mancini, è quasi perfetta. Il quasi sta nel tutto quello che c'era da dire in più e che lui non ha detto. Noi siamo arrivati, noi dico l'Inter perché poi mi piacerebbe, la penso come noi, l'Inter è arrivata a metà stagione con, sì, forse una specie deformante, in realtà una serie di prestazioni abbastanza modeste ma molto gagliarde. È una squadra che in qualche modo poteva trasformarsi in un piccolo Atletico Madrid, e invece è crollata la prova del 9. Dall'evoluzione possibile siamo passati all'involuzione più drammatica del gioco. Quello che ha in mano Mancini è una squadra che continua, a quando ha di fronte delle squadre forti, a tentare di giocare a specchio, e quindi a volte ce la fa, e quando deve imporre il suo gioco, vedi il Torino in casa e vedi tante altre partite drammatiche inspiegabili. Il 3-3 di Verona è una delle cose più folli che abbiamo visto nella storia del calcio dell'Inter recente, e Mancini tre gol di testa identici, presi nello stesso modo identico, una squadra che non è migliorata. Ecco, questo è quello che io chiederei a Mancini, cioè che cosa ha lui in mente per l'anno prossimo, perché questa cosa qui, con un altro mercato che sarà più ricco di quanto pensiamo, perché chi arrivi non arrivi nei soldi dei cinesi, l'Inter si è mossa bene sul mercato, tutti i giocatori che ha voluto Mancini, tutti i giocatori che Mancini ha improvvisamente bocciato. Il mistero è che cosa pensa veramente lui. Quello che ha detto lo trovo molto onesto. Ma tu fai parte del partito che ad agosto vuole ripartire con lui, anche al netto di un eventuale prolungamento del contratto, perché comunque se anche riparte senza un prolungamento del contratto, che oggi non è d'attualità, parleremo di un Mancini che inizia una stagione da allenatore in scadenza, e sappiamo che in grandi piazze questo è comunque un tema su cui vale la pena fare una riflessione. Ma lo è, io non ero per Mancini neanche quest'anno, nel senso che l'anno scorso era stato abbastanza, quello sì, disastroso. Questa non è una stagione disastrosa, questa quella scorsa sì, è stata una vera stagione disastrosa, anche perché Mancini è subentrato a Mazzarri in un momento in cui l'Inter navigava in assoluta mediocrità, ha comprato dei giocatori che voleva, li ha poi tutti messi in panchina, eliminati dalla rosa in tanti modi diversi. Mancini è un allenatore, è prima di tutto una persona molto intelligente, non credo che si beerà del fatto che lo dico io, però insomma lo è. Mi lascia molto perplesso il fatto che lui continui a trovare dei fantasmi. Da metà stagione in poi ha cercato dei nemici dove c'erano, la vicenda Sarri, i giornalisti, questa specie di complotto della stampa italiana contro l'Inter che giocherebbe bene, giocherebbe secondo lui. Io penso che Mancini, se queste sono le sue motivazioni, e se è appagato da una stagione che lui definisce di costruzione, ma che in realtà è il suo secondo anno all'Inter, non mi lascia ben sperare, quindi mi piacerebbe rischiare con qualcuno che magari un po' più voglia, ecco. Se il tema, quindi saresti voglia, per il no, saresti per il no alla ripartenza con Mancini. Esatto, se, però Michele, se mi permetti, questa stagione è forse anche peggio di quella precedente, perché quella precedente è arrivato, si è fatto comprare i vari Shaqiri e i giocatori sul mercato di gennaio, quando sappiamo benissimo che il mercato di gennaio non ti cambia la faccia di alcuna squadra, può mettere delle pezze o migliorare quello che hai già. La scorsa estate ha fatto il mercato che ha voluto, ha speso una montagna di soldi, e in questa stagione, ma tu hai ragione, più che dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista della progettualità che ha deluso. Ma non c'è quello che non vedo io, ma io poi non sono esattamente un uomo di campo, però il calcio lo seguo come tutti noi, lo amo molto. Quello che non ho visto per tutto quest'anno è la scintilla di un gioco che avesse un senso. Io ho visto Perisic schierato come trequartista, l'avete visto poi sulla fascia, è un'ira di Dio quel ragazzo, fortissimo. Ho visto giocatori fuori ruolo, qualche tentativo un po' goffo, quando forse giocando con un po' di continuità, con uno schema che è molto chiaro, cioè giocando con due punti, 4-4-2 o comunque con qualcosa di simile, l'Inter è una squadra solida. Mancini mi preoccupa perché ha questa fissazione della distruzione del gioco a metà campo. L'Inter ha tre centrocampisti che sono degli interditori e dei buoni corridori, Melo magari era un buon corridore, ma comunque non ha costruttori di gioco. E anche se Banega ha già preso per l'anno prossimo, indica che potrebbe esserci un ripensamento o un'evoluzione. Le squadre di Mancini sono sempre molto fisiche, puntano molto sulla fisicità, sì, certo. Giocano su quel genere di intimidazione assolutamente legittima in campo, che è l'Inter che aveva ereditato e con cui aveva vinto, e che poi Mourinho in qualche modo contestò e ricostruì. Era un Inter che fisicamente faceva impressione. Certo. C'era Vieira, c'era Ibrahimovic, c'erano. Certo. Questa non è nemmeno quello, ecco. Quindi, ma perché non ha quel monte talento? Non ha quel monte talento, però ha quel monte ingaggi. Quindi sì, esatto, quel monte ingaggi. Essere un po' preoccupanti, quindi no, io non sono un manciniano di ferro, penso che lui abbia forse bisogno di altri stimoli. Quello che trova all'Inter, quello che ha trovato all'Inter, sono state due stagioni di grandi nervosismi, di grandi silenzi, di qualche buona vittoria e di dei blackout veramente inspiegabili per un allenatore della sua esperienza. Il che conferma la mia analisi iniziale, perfetto o quasi Mancini nelle sue frasi di ieri, ha sbagliato obiettivo, perché sono in tanti intorno all'Inter, più che i giornalisti, a pensare non bene della sua stagione. Tu prima hai fatto un accenno al mercato, vedremo cosa sarà, perché poi in realtà ci sono paletti da rispettare al di là delle parole. Dovessi scegliere uno tra Icardi e Brozovic, al cuore del tifoso quale fa meno male veder partire? Ma Brozovic è simpaticissimo, si è inventato quella terribile vaccata dei selfie con la fidanzata modella, è uno che amano tutti. Io Icardi non lo venderei mai, lo chiuderei a chiave a San Siro e non lo farei più uscire, perché è veramente un attaccante di un altro livello. Pensa che invece sono tanti interisti, ci sono quelli che ti dicono che Icardi non è poi un gran centravanti. Quelli delusi da questa stagione. Mi sono sentito raccontare anche che Icardi sarebbe un giocatore che non si mette a servizio della squadra. Sì, io invito tutti a rivedere Inter-Napoli un po' di volte per la quantità di chilometri di palloni giocati. Icardi non ha bisogno di motivazioni, forse uno della sua età così forte avrebbe bisogno di sapere che sta competendo per qualcosa, se no si rischia di perderselo. Brozovic è tutto sregolatezza. Anche un po' troppe responsabilità con la fascia di capitano. Forse è stato, gli è stato messo sulle spalle un peso eccessivo per questa stagione. Ai Cardi sì, gli è stato chiesto tantissimo, poi è entrato in conflitto con Mancini, che essendo stato, lo sapete, un enorme virtuoso in campo, ogni tanto singarella, come si dice in gergo, con i suoi attaccanti, e quando inizia con questi lo segnavo anch'io, non è che sia un grande motivatore di uno di 22 anni così forte. Però ecco, io Icardi non lo venderei mai, sarebbe un delitto se vogliamo, se l'Inter spera di poter competere per qualcosa. Se l'Inter può permettersi anche di tenerlo, io ripeto, qui parliamo spesso di numeri, di conti. Può tenerli tutti e due, a dire la verità, però credo che poi sia questione di scelte e di come si evolve questa situazione, che è molto poco chiara anche a livello societario, perché poi sorridono tutti in conferenza stampa, ma la situazione tra Toir, Moratti e questi Suning è un po' da chiarire, ecco, forse anche noi vorremmo capirla un po' meglio. Sì. Grazie Michele. Ciao Michele. Ma grazie a voi. Ciao. Grazie Michele Dalai, questo alla vigilia, nell'immediata vigilia di Lazio-Inter, questa sera ore 20:45. Sì. It's just some imagination. Is his imaginary? This is not true. Mr. Mancini, the next season will make water cleaning. Water cleaning? Cosa vuol dire water cleaning? Mr. Mancini live? Mancini no. Mancini no. What no. I think about Mr. Mancini? He starts early, ends early, but usually does not clean the toilet. Ma cosa vuol dire? Ma perché? Difficile capire. Ma resta o no? Questa è l'unica cosa che c'è. No, è l'unica cosa che ci interessa. Mr. Mancini. Mr. Sì. Mancini is not satisfied? No. This is true. The media say no feeling with president. No, there is great feeling between me and Mr. Mancini for a long time. Very long. Lancia traffico. The traffic? Traffic. No. Sì, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Toccato Sebastian Vettel, che riesce comunque a stare dentro, stare in vista, toccato ancora, si gira in testa con Sebastian Vettel, va a muro, partenza ottima di Kimi Raikkonen, partenza invece nel traffico per Sebastian Vettel. È partito molto bene, purtroppo quell'altro l'ha preso in pieno non una volta sola. Rabbia, frustrazione, come descriveresti questo suo momento? Non è un suo momento, cioè chiedetelo a chi gli è andato addosso. Quello che gli è andato addosso è Kvyat. Grazie, davanti al pubblico di casa. Sì. Eccitato magari alla presenza di Putin. Gliel'hanno chiesto, Aspetta, sentiamo cosa ha risposto. Sentiamo cosa ha risposto dopo aver tamponato Fette, che come avete sentito l'ha presa bene, l'ha presa in maniera serena ed elegante. prego. Ho già detto che mi dispiace, non posso più portare il tempo indietro, non posso più portare la sua gara indietro, neanche la mia. Ovviamente queste cose, come ho detto, succedono. Sicuramente riparleremo, perché sono due gare di fila che ci tocchiamo. E ovviamente penso che ci chiediamo, ma sarà una cosa tra di noi, spero. Umberto Zappelloni, vice direttore Gazzetta, sarà una cosa tra di loro? Come la risolvono questa cosa? Meglio qui? Di no, meglio di no. Insomma, si spieghi, no, per una volta. Certo che Fiat poteva anche ammettere di aver sbagliato, che non l'ha proprio fatto. Sì. Mentre in Cina l'errore era stato di Vettel, qui l'errore è stato tutto suo e ripetuto, perché ha fatto la prima e poi la terza curva. Forse il ragazzo è sotto pressione, perché gira voce che l'anno prossimo il suo posto finirà a Verstappen, e nel Gran Premio di casa cercava di ottenere una prestazione che avrebbe messo in luce quei vertici di Red Bull, però sicuramente ha fatto due errori brutti. La prima frenata l'ha completamente sbagliata lui, quindi non si può andare a prendersi con gomme che si sono bloccate e compagnia, insomma. Basta dire la verità, ho sbagliato. È stato anche penalizzato, non tantissimo, bastava che dicesse ho sbagliato, ho calcolato male la traiettoria e la frenata, certo. Basta, un po' di onestà ci vorrebbe ogni tanto. La notizia è che dopo quattro gare del mondiale c'è già un'area di definitività dei verdetti, direttore. Beh, i 100 punti di Rosberg sono tanti, anche perché ne ha parecchi di vantaggio sul suo vero e unico 43, avversario, 43, che Hamilton l'ha quasi doppiato, dopo quattro gare l'ha quasi doppiato. Tutte le sfortune finora sono capitate a Hamilton, anche oggi il suo motore a un certo punto ha dato delle temperature che hanno consigliato i vertici Mercedes di dirgli di rallentare un attimo, quindi il suo sogno di andarsi a riprendere Rosberg è finito. Se si invertisse la sfortuna dalla prossima gara, forse le cose potrebbero cambiare, quindi la battaglia al vertice riprendere, però non vedo come questa Ferrari possa inserirsi nella lotta per il campionato, perché il divario tra il giro più veloce di Rosberg e quello di Raikkonen è impressionante, siamo oltre il secondo e mezzo, il divario in gara ancora è stato di oltre 30 secondi, in qualifica ieri Vettel ha fatto una gran qualifica e poi è arrivato a 7 decimi, insomma non era, è una pista molto di motore, è una pista in cui la Ferrari ha portato un'evoluzione del motore e il distacco c'è tutto, quindi sì. Mi sembra che ci sia in un momento in cui la Ferrari è più lontana di quello che pensava dalla Mercedes, e questo apre anche a riflessioni, questo chiama anche riflessioni diverse al di là della sfortuna, dell'incidente, del tamponamento, cioè mi pare che la stagione della Ferrari stia fumando via in un misto di sfortuna, di imperizia, ma soprattutto di sopravvalutazione di quelle che erano le possibilità all'inizio. È inutile che ci giriamo intorno. La Ferrari l'anno scorso eravamo stati piacevolmente sorpresi dalla una competitività che l'anno scorso, all'inizio della stagione soprattutto, nemmeno ci aspettavamo. Sì, quest'anno è stato dichiarato all'alba della stagione siamo competitivi per il titolo, e lì è arrivata l'illusione, no? E quindi fa ancora più male. Il problema è che non è che lo abbiamo dichiarato noi, voi o i commentatori, hanno dichiarato loro stessi, è stato il presidente in prima persona a dire che voleva cominciare a vincere dalla prima gara in poi. Forse non rendendosi conto che la Formula 1 in Formula 1 è difficile recuperare, soprattutto con delle regole così rigide come quelle di oggi, recuperare da una stagione all'altra quasi un secondo di distacco. La Ferrari si sarà riavvicinata, probabilmente da qui alla fine dell'anno si riavvicinerà, però un ribaltamento che consentisse alla Ferrari di vincere questo mondiale soltanto il mago Dini poteva prevederlo. Marchionne ci ha provato, ma qui non è riuscito a ingannare nessuno, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nello sport è difficile raccontare delle storie, poi i risultati ti pescano se racconti bugie, lo abbiamo visto anche nel calcio spesso e volentieri, in Formula 1 è ancora più evidente. Poi va aggiunta un po' di sfortuna, perché forse oggi un Vettel in gara al posto di Raikkonen avrebbe fatto qualcosa in più. Vettel è meglio di Raikkonen, è più veloce, più costante di Raikkonen, che mi sembra un po' addormentato oggi. In due o tre occasioni mi è sembrato veramente da pensionare, però il distacco resta e non è minimo come qualcuno ci vuole raccontare. Ma ha un senso ragionare anche sulla posizione di Maurizio Arrivabene, che poi è di Marchionne l'espressione in seno alla Ferrari? No, perché non cambierebbe niente, non facciamo gli errori di Berlusconi che mette Bocchi al posto di Mihajlovic, lasciamo che Arrivabene lavori, perché la Ferrari ha sempre fondato sul non cambiare i suoi uomini, la sua arma vincente, cioè Todd, i primi anni di Todd furono drammatici dal punto di vista dei risultati sportivi, però Todd non fu cambiato e poi arrivò a vincere tutto. Con Domenicali ci si è provato, però lì c'era anche un gap tecnico importante, mancavano degli ingegneri, mancavano delle strutture. Adesso sembra che le strutture siano migliorate, che siano ritornati ad essere degli ingegneri competenti in campi in cui la Ferrari era deficitaria, che lasciamo lavorare, arriva bene, non facciamo i vecchi errori della prima dell'era Montezemolo. Ti faccio un'ultima riflessione su Hamilton: quanto tempo ha a disposizione perché le gerarchie in casa Mercedes per questa stagione non vengano cristallizzate? Ma io credo che la voglia di Mercedes di veder vincere Rosberg sia tantissima, perché se dopo due anni di Hamilton far vedere che vince anche con l'altro pilota, che nessuno reputa un fuoriclasse, un ottimo pilota Rosberg, ma non un fuoriclasse a livello di Hamilton, per una casa costruttrice sarebbe il jolly, e quindi credo che dovrà impegnarsi molto per sovvertire le gerarchie in casa Mercedes. Sì, sì, e molto, è anche in fretta, perché quei 100 punti pesano. 100 punti pesano, il doppiaggio e poi rischiano, e poi rischiano di diventare una sentenza prematura. Vale anche per tutti noi, che dobbiamo andare avanti fino a novembre col mondiale di Formula 1. È dura. Ed è dura. Esatto, speriamo, non vorrei ritrovarmi a fine maggio col mondiale si è deciso. Bravo, esatto. Assolutamente. Grazie ad Umberto Zappelloni. Grazie a voi, buona serata. Grazie ad Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Abbiamo quasi finito. Sì, abbiamo quasi finito. Insomma, in questa domenica piena di emozioni, l'abbiamo Leicester detto, ha giocato con Leicester anche, sì, una discreta partita, un'ottima partita, un punto di vista tattico, mi è sembrato niente di speciale, meritava di vincere Manchester, no, ma in realtà non è vero, mi sembra Don che Fabio stia un po' rosicando. Io sono sono molto felice per Claudio, non sembra, anche se non è sufficientemente, ma non è vero, carismatico, ma perché? Per il Regno Unito, battute sulle sul dili-ding, sul dili-dong, però possiamo dire che è una soddisfazione per tutti se vince la Premier League. Dai, io ho vinto col Milan, ma cosa c'entra? Io ho vinto magari con la Roma, io ho vinto con Real Madrid. Ci fermiamo qui, io ringrazio. Vinto. Sì, ha vinto. Con la nazionale inglese, no. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Carmelo Lauricella, Valeria Bernardi in regia. Andro Mercu, punto Carlo Genta, vista tattico. Domani tutti i convocati, torna dopo il GR con Real Madrid, 14. Abbiamo capito, sì. E con la Roma. Ciao. E col Milan. Vivo di emozione, tanta emozione. Correre per me è un modo di vita. Correre per me è un modo di ridere, è un modo di piangere, è un modo di espressare i miei sentimenti.